Ciao i bambini, al nero come sfondo. Abitua i tuoi bambini al nuovo mondo. Abituati alle armi e alla violenza, abituati all'ordine e all'ubbidienza. Il mondo è solo una questione di abitudine, con un'arma si sconfigge la solitudine. Il mondo basta solo smettere di sognare, diventare grandi presto ed iniziare a godere. Abitua i tuoi bambini a mentire, abitua i tuoi bambini a soffrire, abituali a risolvere i problemi con i ricatti, abituali a giudicare i diversi tutti matti. Il mondo è solo una questione di abitudine, con la corruzione si sconfigge l'inquietudine. Il mondo basta solo pregare chi ti vuol bene, si può far tutto per guadagnare se conviene. Abitua i tuoi bambini alle divise da portare, abitua i tuoi bambini a giudicare senza pensare, abituali a girarsi e non guardare, tutto quello che li potrebbe far ragionare. In fondo è solo una questione di abitudine, ammazzare può diventare una consuetudine. Quando basta convincerli che tutto un gioco e che il veleno che assumono sia sempre poco. In fondo i soldati non devono fare domande mai, uscire sorridenti da tutti i guai. In fondo i soldati non devono fare domande mai, e uscire sorridenti da tutti i guai.